English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. In questo appuntamento con English 24 parliamo di un film attesissimo. Dico solo il titolo: The Social Network. E tutti hanno capito che stiamo parlando del film che esce proprio questo fine settimana, dedicato alla storia del fondatore di Facebook, di Mark Zuckerberg. È stato presentato al Festival di Roma proprio la scorsa settimana. Abbiamo incontrato l'attore protagonista, che è un credibilissimo Mark Zuckerberg, che vedrà il film a questo fine settimana al cinema, se ne renderà conto, ma anche un ragazzo molto educato, molto gentile. Sentiamo come parla in inglese e soprattutto cosa ha pensato quando gli hanno presentato questo progetto di The Social Network, Jesse Eisenberg. Well, you know, when I first heard that they were making a movie about Facebook, I assumed it would be very popular. But then when I read this wonderful script by Aaron Sorkin, I thought, in a way, it's too good to be popular. It's too clever to be popular. You know, it's too smart. When I saw that the movie was embraced by a lot of young people, I was so pleasantly surprised. It's possible to be discouraged by the movies that do really well. When a movie like this comes out and does really well, it kind of reinvigorates your hope that people are looking for something a little more interesting or complicated. Appena cominciato a parlare Jesse Eisenberg, Fabio in regia ha detto: va veloce, però effettivamente parla un po' speditino, sì, il nostro Jesse. Quasi accelerato, deve essere intelligente, forse non quanto il protagonista che del film, perché insomma il fondatore di Facebook è un genio, però sicuramente uno con un cervello. E infatti ci fa questo discorso, cioè che quando gli hanno, you know, sentite che dice, riesce a dire dei velocissimi you know, inframmezzati a tutto il resto, e quando gli hanno presentato il progetto ha pensato che era too good to be popular, troppo buono per popular, attenzione, non è popolare, c'è un po' un false friend, ma che diventa di pubblico dominio, che piace molto, quindi non popolare nel senso necessariamente di una cosa di livello non eccelso, ma che piace molto. Too clever to be popular, quindi troppo intelligente per piacere a tutti, ecco. Addirittura too smart anche. Too smart, quindi troppo intelligente per be popular. Perciò ho questa idea che the conversation and the dialogue, per esempio, dice lui, erano veramente appunto good, clever, smart, forse troppo good, clever and smart to be popular. E invece poi, perché il film è uscito da due giorni da noi, no, ieri giusto è uscito da noi, ma negli Stati Uniti naturalmente da qualche settimana, si è già dimostrato che per quanto smart, clever and good, è stato anche comunque popular. E questa cosa, in un certo senso, lui dice, ti fa sperare bene, perché invece questo film così intelligente è piaciuto. Sì, quindi qui ha un modo molto carino per dire quanto a volte si resta così, si resta male perché hanno un successo pazzesco un po' dei film boiata. Questa è l'idea, però lui lo dice in modo molto carino. Dice, you know, it's possibly to be discouraged by the movies that do really well. È possibile, in effetti, comprendiamo che qualcuno possa essere scoraggiato, lui in primis naturalmente, vedendo che tipo di film hanno successo. E invece questo in un qualche modo rafforza la tua speranza. E qui kind of, questo è un altro intercalare, quindi tipo, praticamente c'è, cioè un po' un cioè americano, kind of reinvigorates your hope, cioè in un certo senso appunto rinvigorisce le speranze che le persone vogliono, that people are looking for, to look for naturalmente un phrasal verb che vuol dire cercare, to look for something more interesting or more complicated. Un'ultima notazione, vedete che quando gli aggettivi sono molto lunghi, interesting and complicated, non possiamo naturalmente fare interestinger or complicateder, ma dobbiamo mettergli il more davanti. Lui ha il ruolo di Mark Zuckerberg, ma com'è il suo Mark Zuckerberg? The character I play in this movie is kind of very uncomfortable interacting with others. Instead of feeling bad about it or trying to ingratiate himself to other people or feeling guilty that he's not interacting in a way that's satisfying to the other person, he kind of turns inward, like you're saying. He just shuts down emotionally. This is a character who kind of is unable to gauge the emotional experience of the person he's speaking with, and in many ways unable to gauge his own emotional experience. And so oftentimes the character just kind of shuts down emotionally, and it's not uncommon, this kind of very complicated emotional inner life and inability to read other people's emotions. Sì, perché spesso noi sentiamo parlare di Mark Zuckerberg come una persona piuttosto spietata. Ci sono state anche delle cause, e il film ne parla, con i suoi amici dei tempi dell'università, i quali avrebbero in un qualche modo rubato l'idea. Il film non gli fa sconti, però non parla di lui come una persona cattiva, anzi, come una persona molto complicata. Qui naturalmente il false friend character, sappiamo che non è carattere ma personaggio, quindi the character I play, il personaggio che io interpreto, kind of, torna di nuovo questo kind of, you know, kind of, gli piace un sacco questo kind of, e ci spiega appunto che non è cattiveria, non è, ma... E qui naturalmente magari uno psicologo potrebbe usare dei termini quasi un pochino più tecnici, però lui lo spiega in un modo che così quasi da coetaneo, cioè che cosa succedeva, is very uncomfortable interacting with others, cioè il punto è tutto lì, non essere a proprio agio nell'interazione con gli altri e scambiare questo ed è una cosa che può essere scambiata per mille altre e la persona che percepisce questo suo non essere a suo agio Can feel guilty, per esempio, si può sentire in colpa o comunque ovviamente in un circolo vizioso vedo che non riesco a interact e mi chiudo sempre di più in me stesso e gli altri mi percepiscono come ancora più strano e via così. Ed è quello che succede in un qualche modo, è come se lui si spegnesse dal punto di vista emotivo. Questa è un'espressione molto efficace, appunto, to shut down, to shut naturalmente sappiamo che è chiudere una porta, shut the door, to shut down, questo down è, allora rafforza ancora di più questa idea di chiudere, quindi shuts down emotionally, è una, appunto un'immagine molto forte, no? Chiudersi emotivamente, quindi chiudersi la possibilità di quando... purtroppo si è costretti ad avere a che fare con gli altri, però farlo in un modo apparentemente scevro da ogni emozione. E quindi lui ha una vita interiore particolarmente complicata. Chiaro, appunto. Poi qui parliamo di uno che era poco più di un adolescente, ricordiamocelo quando si è inventato Facebook. Era appena arrivato al college. Quindi very complicated inner life e una inability to read other people's emotions, quindi di una incapacità di vedere, di leggere le emozioni degli altri e le proprie, naturalmente. Come si diceva un tempo, la domanda sorge spontanea e l'abbiamo chiesto a Jesse Eisenberg. Cosa ha detto Mark Zuckerberg se ha visto il film? I think his reaction is probably very complicated to the movie. He took all of his employees to see the movie on October 1st. When the movie came out in the States, Mark rented a theater and took all of his employees to see the movie. One of those employees was my cousin who works for Mark and Mark told my cousin to tell me that he thought I did a good job, but that's all I heard. So that was very nice to hear, and of course a relief, but I can't imagine what his reaction is to the story in general. Eccolo qua, così scopriamo anche una strana coincidenza nella vita privata di Jesse Eisenberg, perché il film effettivamente è uscito negli Stati Uniti all'inizio di ottobre e Mark Zuckerberg non solo l'ha visto, ma addirittura ha affittato un intero cinema. Sì, e poi tra l'altro mi viene in mente Six Degrees of Separation, no? Che tra ciascuno di noi ci dovrebbero comunque, siamo comunque legati, perché appunto scopriamo che poi l'interprete del film che non conosceva Zuckerberg in realtà ha un cugino che lavora per Zuckerberg, ma comunque, e l'esordio sta tutto in questa frase, cioè tanto è complicated la inner life di Zuckerberg, tanto è complicated la sua reaction to the movie e il nostro attore non si azzarda a cercare di spiegare esattamente quale sia stata. Molto diplomatico, appunto, ha portato Mark Zuckerberg, tutti i suoi dipendenti a vedere il film, sapeva che c'era il cugino di Jesse e gli ha mandato un messaggio molto educato, devo dire. Sì, l'attore appunto dice one of those employees, ricordate to employ il verbo employer, colui che dà lavoro, e l'employee invece colui che è il lavoratore. Questa è una cosa che possiamo usare per tutto, tipo licensor è quello che dà la licenza, licensee è quello che la prende, insomma l'abbiamo già visto tante volte. Ma insomma, uno di questi employees was my cousin, e he works for Mark, dice il nostro attore, e gli ha detto di riferire che he thought I did a good job. Good job è un'espressione molto americana che può essere usata in generale, appunto se uno ha fatto una cosa in particolare, quindi appunto essere il protagonista di un film, però anche se la Marta mi regala una torta, io che so che è una brava cuoca, io le dirò thanks, good job, insomma è un'ottima torta, ecco, posso anche dirle così. E devo dire che effettivamente io me l'immagino Jesse Eisenberg che fosse un po' preoccupato prima, e infatti poi è stata una sorta di sollievo sapere questa cosa. E lui dice, premette, that's all I heard, cioè poi questo è tutto quello che so della reazione di Zuckerberg, però it was very nice to hear, però è stato molto molto molto carino da sentire questa cosa, and of course a relief, e ovviamente è stato anche un sollievo, perché Zuckerberg, l'abbiamo detto all'inizio, insomma è un genio, è very complicated, uno si può aspettare qualsiasi cosa. Infatti dice I can't imagine, non posso immaginare. immaginare quale possa essere stata la reazione poi in realtà su tutto il film, perché lui ha sentito solo quella frase di Mark Zuckerberg e se la tiene stretta, perché evidentemente è andato bene così. La sentenza sarà vostra se andate a vedere il film intanto questo fine settimana al cinema, da Social Network, perché il nostro tempo radiofonico anche per questa puntata si conclude. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia, vi ricordo English 24 in edicola, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, e ci vediamo su Facebook. Ci vediamo anche su Facebook. Ci vediamo anche su Facebook. L'appuntamento al prossimo English 24.